La situazione colombiana relativa al sindacalismo è una situazione tragica. In realtà questa corrisponde con una realtà più generalizzata di conflitto in cui preponderante è il meccanismo che viene chiamato di guerra sporca, che nient'altro è un meccanismo di repressione e di massacro a cui partecipano congiuntamente pubblica sicurezza, apparati dello Stato e quel gruppo che è definito paramilitari, che nient'altro è appunto il braccio esecutivo, esecutore di questa politica di guerra sporca. Guerra sporca intesa come una guerra che non punta alla lotta armata, alla guerra contro le organizzazioni guerrigliere, quanto piuttosto ha come obiettivo la popolazione inerme nel caso delle comunità in cui le zone sono controllate dalla guerriglia e sul fronte urbano in generale, sul fronte sociale, ha come obiettivo tutti coloro, uomini e donne, che all'interno dei sindacati, delle ONG, delle associazioni di difesa dei diritti umani, organizzazioni indigene, contadine e via discorrendo, cioè tutti coloro che agiscono nel campo sociale, ecco, si oppongono alle politiche portate avanti dai governi colombiani da ormai decenni. Quindi il sindacalismo in realtà rientra in questo campo di azione della guerra sporca. Negli ultimi 10 anni sono stati uccisi all'incirca 3.500 sindacalisti, tra dirigenti sindacali, lavoratori sindacalizzati, quadri intermedi e via discorrendo, nonché familiari degli stessi sindacalisti. Intere organizzazioni sindacali sono state annientate fisicamente, cioè oggi non esistono più, perché appunto sono stati uccisi sistematicamente i propri dirigenti, e noi portiamo a esempio della situazione il caso del Sinaltrainal, che è il sindacato che ha lanciato la campagna di boicottaggio contro la Coca-Cola, la quale è accusata di essere la mandante degli omicidi di alcuni dirigenti sindacali e lavoratori sindacalizzati all'interno delle fabbriche della Coca-Cola. Il Sinaltrainal appunto ha avuto uccisi dei dirigenti sindacali, addirittura 2 all'interno delle stesse fabbriche, e uno di questi, Hector Useche, addirittura in piena trattativa con la controparte aziendale, più una serie di altri sindacalisti locali nelle varie città dove appunto ci sono le fabbriche della Coca-Cola. L'ultimo fatto gravissimo è stato il giorno prima dell'incontro pubblico che si è realizzato in Italia tra la Coca-Cola Company e il Sinaltrainal, tra l'altro un incontro che da anni veniva richiesto e non era mai stato fatto. Bene, il giorno prima a Barranca Bermeja, una città colombiana dove tra l'altro si dirigerà la carovana, è stato vittima di attentato il presidente della sezione di Barranca Bermeja del Sinaltrainal, con colpi d'arma da fuoco, come evidente intimidazione per quello che poi sarebbe successo il giorno dopo qui a Roma. Sono decine i pronunciamenti dell'ONU, delle commissioni per i diritti umani, di vari governi, dell'OIT, insomma sono decine e decine documenti che denunciano questo stato di cose, che denunciano chiaramente lo Stato colombiano come attivo soggetto di questa politica di guerra sporca, eppure il governo ancora sta lì. Tra l'altro Uribe, l'attuale presidente, rappresenta l'anello di congiunzione di tutti quegli interessi che da sempre in Colombia hanno determinato questo clima di guerra. Quindi la carovana chiaramente nasce da questo quadro di cui abbiamo parlato, nasce su iniziativa del Sinaltrainal, il sindacato che denuncia la Coca-Cola, ma a questa carovana hanno aderito una serie di organizzazioni sindacali, nonché come dicevo la Centrale Unitaria dei Lavoratori, la CUT, proprio con l'obiettivo chiaro ed espresso che chiaramente di dare visibilità a questa situazione. La carovana girerà alcune città della Colombia dove in particolare c'è stata una forte offensiva nei confronti dei sindacalisti, incontrerà le sigle sindacali presenti, le centrali unitarie, e con loro ovviamente si cercherà anche di studiare una strategia da qui al futuro di appunto lavoro congiunto in termini proprio di denuncia, visibilità e chiaramente accesso anche a istituzioni internazionali che possano in qualche modo arrestare tutto questo.